fatto stasera, domani no. Ma sei in occhi? E non lo so, rubato della banca. E beh, buonasera. Ah, tu sei arrivato già la sera. Ma sei a Cocco già. Buongiorno anche. Dai. Speriamo che sia un buon giorno. Perché tutti i giorni ne abbiamo una. Vabbè, ok, io stavo... Stavo chiamando la parecchio macchina, non so per tutti gli anni. Non è entrato ancora nessuno. Non è entrato. O solo entreranno tra un po', boh. Non è entrato. I botti, roba lampata a terra, ombrelli. E ha detto, se la si vuole ascoltare, non so dove c'è la macchina. Addirittura. Io faccio che un capo di una cosa. Ah, se non ne avvini, a sta sopra la cabbia scura, e che sono tornati lì che ve la cura a pittorra. Ma che è quella di pastore? Allora, un problema che faccio, che c'è antenna di link, ma faccio. Allora, secondo me quella di ogni tanto mi fa questo rumore. Ai non amara. Ma io lo so tanto di voi, la verità la vado a Eh, sicuramente. Oh, magari senti la venta, la senti. Io non ho fatto una cosa. Nell'aria, ma porcherie per me. Già lo so. E valvolare o no, in ricezione senti sempre questa porcheria. lì la gente. A meno che non la faccia con una pezzerico di osso, gà, mica roba. Veramente, una porcheria, tanto ti entra lo stesso, mi. O valvolare o no, c'è sempre il problema che in trasmissione ti ribigli che c'è cose. Non so, però, Questo è già se ne parlavo, non so che se ne tutto perché sono i bambini di carico, stavano lasciando le cose che non sono più, che possono essere una situazione di vita, di però ripeto, il cielo era pulito, non c'era anche una situazione. Oggi cazzo tu attacchi un robot, ti dice il robot va a pulire i bagnetti a casa tua, e lavorano una frequenza, non è capito? Hanno tutte sempre le cazzure, che dietro non è niente, magari mentre stai parlando al microfono, cazzo, questo robottino che si rompe il coglione perché lo sei strutturato, cazzo, perché quello sta pulendo fuori il vento, capito? Prima poteva capitare, come dicevo, c'era un mio amico, invece si dice che non hanno due troni. Quando a quei tempi, che non tutti ce la potevano fare, adesso avevano un gambo, può fare le nostre cose. Oh cazzo, io sono tutti vicino di casa, perché schiava da tutti i casi, tutto lo sentivano dentro i citofoni, rimandate il filtro e tutto cazzo. Oggi se ti vedi ma non è levato il cazzo, quello ce l'ha vedato tutto vicino di casa. C'era per questo, era pulita, non c'era per questo interferenza. Magari erano insazzati tutti quanti che c'ha apparecchiatura che fa tenere rumore, con chi c'ha potenza qua. Avrei fatto un investimento se saprei che saltassero tutte. Vabbè, ma poi c'è anche poca gente. Prima la gente già sta dei lineari, si mette un altro tanto, non parte la poi di gente di modulare, si vede sulla rotta del carro. Noi abbiamo visto un personaggio e poi era un personaggio che quasi ti faceva piacere che ci fosse, ci parlavi, ci non fai le palle, a volte le palle è tutta la città, ma per tanti anni le chiamavano sulla storia. Sulla storia non si è mai riuscito a capire chi era veramente, molti hanno pensato, più o meno ci fosse. Ma questo è stato per tantissimi anni, a parte la conferenza, che ci giravano tutta la città, cazzo, ma sto qui adesso che erano esperto perché parava quando scala di colpo di arrivare sotto, cazzo, tu sappiamo il tetto, sappiamo il tetto, sappiamo il tetto, aveva adesso le varie antenne, le varie piscine, cioè, non è pisciato, a tutti, parlava male, parlava male, però alla fine si va già di lui sì, perché alla fine lo conoscevi, sembrava corpo, tu non dico. E questo non è importante, non si voleva portare, si venivano da fare, per cui alla fine più di tutto per andare, perché non è che c'era una o due persone, c'erano 20-30 persone in una rotta, fa turno, gatto, a passare uno all'altro, sono come usi, sono degli sciuri. Ehi, che tu non ha pigliato burro capiotti, ma in che sale? Lo so, gli sono bianchi, schiadati, capiotti, e non li voglio nominare perché questi due personaggi sono morti tutti e due nel frattempo. Che ha dato il capiotto e l'ha pigliato, perché si è già camminato, perché erano due carissimi amici, quello che si potevano stare a fronte che erano carissimi anni, questo che rompeva le palle, alla fine ha già detto, ma perché questo non è parlato, ha dato una testa, quello ha perso, però sono cose così, mi sono ricordato, perché passava un farro quelle cose, quelle cantate lì e i colpi non li pigliavano. Magari non c'era anche gente che si aspettava nelle canali, che andava anche tanto che erano le cose commentate, e questo magari delle persone che stavano in città morte, che erano tutti che vanno, c'erano i prete, abbiamo fatto tanto di quelle feste, siamo fare 30-40 cittadini di una discoteca a fare il calcino, andavamo più indagato e tutti rigorosi, che siamo ripetuti. Il cellulare non vedo niente, oggi parlava bene. Allora, ma bisogna il cellulare, ci sono succiuto il capitone, bisogna. Per carità, niente ci abitona. non l'ha portato indietro solo, perché poi di costo mi sono fatto scala, come ero stato attaccato per andare la fotografia, di costo è stato in canale, in canale, in canale, in canale, in canale, ma per caso nella parte di via Surci si era? Quando ho sparito il segnale ero così, perché io sono andato a via Surci, quindi lui, stavo con la sua, e sono arrivato in via Rosa Moreta, fino a via Rosa Moreta, e così, da una traio, la via Sovarti della Costituzione, perché il corpo di segnale che sta a Moreta, un po' sommessa, faceva un segnale strano, cosa portava, era strano, ma prima lo so, io se mi sono detto, non so se è troppo tempo, perché me lo so detto, perché questo segnale particolare che poi fa portare. Quindi questo è stato, sparisci dopo un attimo, il segnale stesso è detto, questo è stato il segnale stesso, questo è cambiato anche. Ma dai, forse... Cioè, cazzo, non ci voglio credere, va. Vabbè, da. Ma giù compreso, da. Andiamo un po' perché non è stato, c'è la stessa zona. Non è vero, non è che non è che parla di tutto quello. Però, non so se non è una situazione che non è stata via, quindi non è una situazione. Rispetto, quella portata era stata fatta, perché non ho il timbro di quella portata, quindi forse non lo so neanche di questo problema che faccio la prima volta. Ma fa che c'è, Marco, ma fa cosa fa queste cose? Boh, ho già capito l'indizio, ho già capito, là. Cioè, ma veramente incredibile, ragazzi. Adesso metto le batterie al portatile, metto, il giorno che c'è, torna qualcosa del genere io esco. Ci vogliono 8 batterie, ci vogliono. Domani ricompareggio. Ma noi ieri notte, quando abbiamo cominciato a parlare della portatile, io ho pensato sulla zona, so la prima di che succede, piglio, faccio e avessi un bizzicheggio, però se scopro che è quello che sto pensando io, siccome ho confidenza, glielo dico, cioè, ma poi cosa devi fare che ci cose, cioè, se capisco che è lì, cioè, no, cioè no, non va bene così. Poggia il telefono giù io, se è quella persona lì. Ehi, ma che ha fatto? Non si può dire che sia, anche perché se è un amico non può fare, se vuoi, se c'è qualcuno che magari non può fare, che rispetto, non c'è una pulita, ma in forse anche gente che non conosciamo, gente che non siamo mai passati qua in qualche paese, no? In verità è difficile, l'ho fatta perché, ripeto, questa portata, secondo me è un ottimo segnale, è questa classe di gioco, fa qualcosa di strano, poi mentre ce la portata, mi sento così, così di piacere, se non c'è qualcosa di strano, ma se ci pensi un attimino, cioè, può anche essere riconosciuto, c'è uno che frequenta qui, noi tutte le sere, prima o poi come rientra, perché riconosci, perché lo ha portato, ancora per il video d'ora, ma cambia, non so, cambia balassi. Però a questo punto ha fatto una forzata, così. Ma fa cosa devi fare che ci cagate? No, non capisco. Perché devi fare, ti devi comportare in questa maniera? Cioè, non piglia lo cosa e fa vita, non piglia. Cioè, non capisco veramente. A me non dà fastidio, anche perché io avrò un po' di tempo di cui non è voluto cautare. Provato molti anni a gente con una persona, avevo parlato un tizio, avevo parlato di un'altra cosa, ho canato, ma poi ha detto che comunque mi ha fatto questo, come stai in ascolto, che io non avevo mai sentito, e non è che mi vado in ascolto, ma detto, da che è successo, mi stai in sta succedendo, stiamo scoprendo che c'è molta gente nascosta, molta gente che non entra e noi gente che anche mette in contatto, e mi ha fatto piacere perché non mi ha fatto riconoscere alcune cose di più. Vediamo se c'è qualche altro in ascolto. Ma c'è qualcun altro? Sì, campa, dai, non c'è problema. Senti, sono giù, c'è un rumore fastidioso. Allora, vedere un po', adesso guarda che ore sono. Le 11:58, vai, vai. Ma comunque ce l'hai anche quando stavo arrivando, senza chiedere, senza chiedere, senza chiedere. Sì, la ventola, la ventola dell'alimentatore. Magari vi ricordate la prima. Ciao, ciao.